Secondo me le case dovrebbero darle in prova. Un po' come fanno le aziende automobilistiche, che quando esce un modello nuovo tu puoi andarci, puoi salirci e farti un giro per sentire se il motore è brillante oppure se il sedile è abbastanza comodo. Io sono qui. Di Matteo Caccia. A grande sorpresa oggi, sono le 16.04 minuti, io sono Matteo Caccia, questa è la D24 e sono qui. Questa notte, nonostante non ci fosse stato il GR, anzi forse proprio perché sapevo che non ci sarebbe stato il GR, ho fatto un sogno nitidissimo. Credo che siano i sogni della mattina quelli più nitidi, quelli che fai poco prima di svegliarti. E quindi non so se te li ricordi meglio perché ti sei appena svegliato oppure semplicemente perché sono dei sogni particolari, insomma, non lo so. Il sogno non era un incubo. Anche se poi la sensazione che mi ha lasciato era abbastanza disarmante. Riguardava una persona che mi è molto cara, che è una persona con cui io ho lavorato e ancora un po' lavoro ogni tanto, che ho conosciuto 10 anni fa, però proprio su un posto di lavoro. Sapete, capita delle volte che avvengono questi incontri stranamente felici, che sul luogo di lavoro incontri una persona che poi è anche il tuo capo, detto proprio male, cioè che la persona che è il tuo referente, a cui tu fai capo. Ed è una persona intelligente, è una persona attenta, è una persona sensibile e sa fare il suo lavoro. Non è facile, però capita ogni tanto di incontrare persone così. È chiaro che quelle persone poi rimangono anche al di là del lavoro, e anche se potrebbe essere probabilmente mio padre, forse no, senza offesa, spero non stia ascoltando in questo momento, comunque rimane una persona con cui ha un legame molto forte. Insomma, lui era il protagonista del sogno, era lui e la sua famiglia. Il sogno era terribile però, perché lui perdeva una figlia. E io ho proprio palpato in quei 2 minuti di sogno, credo, o 5 che erano, questa mattina alle 7:30, perché ho aperto gli occhi, erano le 7:35, la sensazione che si prova in un caso come quelli, in un caso come questo. E non so come, però quando mi sono svegliato mi sembrava di essere un pochettino più vicina a questa persona. Poi la prima cosa che ho fatto chiaramente è stata andare su Facebook per vedere se sua figlia stava bene e le aveva postato una cosa, quindi era chiaramente un sogno, perché poi la sensazione era, boh, forse è successo veramente, io non me lo ricordo e qualcuno me l'ha detto, o forse è un sogno premonitore. Poi ha voglia che la nonna ti dice: se sogni che qualcuno muore, gli allunghi la vita. Però, nonna, mi sa che quello ormai pure è andata. Il sogno era questo. Se qualcuno ha idea di che cosa si tratti una roba del genere, magari me lo racconta. 349-238-6666. Altrimenti, comunque, è tutto a posto. Lucky Strike è tostato. Ma anche il tabacco degli altri è tostato. No, il tabacco degli altri produttori è velenoso. Quello della Lucky Strike è tostato. La pubblicità si basa su un'unica cosa: la felicità. E sapete che cos'è la felicità? Beh, la felicità è una macchina nuova. È liberarsi dalla paura. È un cartellone pubblicitario che ti salta all'occhio e che ti grida a gran voce che qualunque cosa tu faccia è ben fatta e che sei ok. Questa è una lezione proprio di ABC di quello che vuol dire indorare la pillola. Avrete capito che, visto che sto cercando una casa e sono a stretto contatto con questi esseri che ormai trovo meravigliosi, che sono gli agenti immobiliari, ormai sto affinando un pochettino l'olfatto su questa questione del fare mestieri in cui tu vendi delle cose, però l'80% di quello che vendi è proprio indorare la pillola. Se ci fossero dei pubblicitari, esistono ancora i pubblicitari? No, nel 2010 esistono ancora i pubblicitari, no? Perché suona un po' anni 80 il pubblicitario, però secondo me c'è ancora qualcuno che lo fa oggi. 800240024 349-238-6666. Che siate dei copy, che magari lavoriate per una concessionaria di pubblicità, che facciate la parte grafica, la parte visual, o la parte invece scritta. Io vorrei sapere com'è fare un lavoro in cui fondamentalmente si indora la pillola. 800240024 349-238-6666. Perché io un pochettino lo so, perché ho avuto la fortuna di fare un'università che quello faceva in sostanza. È una di quelle facoltà in cui più o meno tutti quanti gli insegnamenti che si tengono iniziano per sociologia e tecnica di tecnica di pubbliche relazioni, tecniche pubblicitarie, sociologia della comunicazione, sociologia dei mezzi di comunicazione. La prima cosa che mi hanno insegnato in quell'università lì è stata, me lo ricordo molto bene, e a dirmelo fu questo professore che si chiama Gianpaolo Fabris, che era un esperto proprio di sociologia dei consumi. Io mi ricordo che lui un giorno disse: guardate ragazzi, attenzione, perché la pubblicità non vuole vendere un prodotto. Eh no, la pubblicità vuole creare propensione al consumo. Fatevela girare un po' in testa questa frase, eh? Che la differenza è sottile, ma è sostanziale. Cioè, comunque, è sempre che... che meglio che non ti giri. 800 24 0024 oppure 349 238 6666. A questo proposito faccio veramente un piccolo excursus che riguarda i miei professori universitari, perché un po' come capita, come dicevo prima, con le persone con cui si lavora, che sono persone a cui ci si affeziona e che poi ti rimangono, se riesci te le tieni strette per la vita, succede questa cosa anche con alcuni professori universitari. Quelli non te li puoi tenere stretti, almeno che tu non sia una donna e ti ci fidanzi, come può capitare. No, è però che ti rimangono in testa e un pochettino nel cuore. Ieri io ho scoperto, me l'ha raccontato Tiziano Bonini, perché lavora in quell'università lì, che un mio professore con cui avevo studiato economia aziendale, economia politica, che è l'unico, diciamo, corso che ho seguito, altrimenti non mi sarei mai laureato, è mancato qualche giorno fa. Lui si chiamava Carlo Antonio Ricciardi. Era un professore che faceva del suo essere milanese, anche se era di Pavia, però per capirsi, del suo essere milanese proprio un punto di forza. Lui arrivava con i capelli leccatissimi, abbronzatissimo, sempre, ed era sempre sul pezzo. Cioè, credo che se non avesse fatto il professore di economia, se non avesse fatto l'economista, avrebbe fatto il cabarettista. E lo ricordo per questo episodio, che tutti conoscono l'università, ma ho avuto la fortuna di vedere dal vivo durante un esame. È giugno, arriva questa ragazza molto bella, molto avvenente, è in minigonna, ha un grande spacco sulle cosce e una maglietta molto scollata. Comincia a parlare agitando i capelli e le mani e dopo 20 minuti lui la guarda e le dice: signorina, qui visto molto, sentito poco, torni la prossima volta. Lui era il professor Ricciardi, che saluto e che ricordo in questo modo. Per il resto, invece, io vorrei sentire solo ed esclusivamente oggi pubblicitari. Lucky Strike means fine tobacco. And something else. It's toasted. It's toasted to taste even better. Se non avete studiato pubblicità, vi guardate qualche puntata di questo telefilm che abbiamo mandato un attimo fa, che si chiama Mad Men, che è il telefilm che sta vincendo tutti i premi possibili negli Stati Uniti, che ha la forza di essere pure un po' noioso, però di raccontare alla grande il mondo della pubblicità e anche quello che ne è venuto dopo la pubblicità. Insomma, se fate un mestiere in cui indorate la pillola, valgono anche gli uffici stampa, valgono tutti quelli che fanno cose per cui si ha a che fare con un prodotto che tu devi sapere vendere. 800 24 0024 349 238 6666. Prima però io vorrei leggervi quelle che avrei definito confessioni di un pubblicitario, perché c'è un ascoltatore che su Facebook mi ha scritto che lui fa il pubblicitario, si chiama Giovanni, non dirò il cognome. Lui gli ho chiesto di partecipare, lui ha detto preferisco di no. E lui mi ha raccontato che questa questione del dire sempre la verità lo ha toccato proprio per il mestiere che fa. E mi ha scritto questa lettera. Ciao Matteo, ho un'agenzia di pubblicità, ma sono un pubblicitario un po' atipico, se mi passi il termine. Cerco di non indorare la pillola, ma di mostrarne il lato vantaggioso. È un sistema che funziona piuttosto bene e che, ironia della sorte, si basa sulla sincerità e sul cercare di dire sempre la verità. È il modo migliore per guadagnarsi la possibilità di dire bugie. Mi spiego. Mentire non basta, in generale, bisogna anche essere creduti, e per essere creduti bisogna risultare delle persone, e questo vale anche per le aziende, sincere. Così, se non dici mai bugie nella vita, o se parli dei tuoi prodotti in modo trasparente, la volta che dici una bugia, o che ometti che i tuoi prodotti, ad esempio, vengono fatti da bambini cinesi di 3 anni sottopagati, ecco, quella è la volta che vieni creduto, perché ormai sei una persona o un marchio affidabile. 800 24 0024 349 238 6666. La casa che mi porta a vedere la mia agente immobiliare è un piccolo appartamento ricavato in una casa unifamiliare. Il vecchio proprietario era un falegname. Viveva in questa casa di 2 piani con la famiglia e aveva la falegnameria sul retro, davanti ad un piccolo cortile. Ora, La falegnameria in questo momento è diventato un loft molto milanese, in cui vive una coppia con tre figli. Tutta la casa è stata ristrutturata e divisa in piccoli appartamenti, e anche questo è molto milanese. In questa città ci si abitua a vivere in spazi che in altri posti servirebbero giusto per una stanza da letto. Quando entriamo in casa, lei tira su tutte le tapparelle, apre le finestre per mostrarmi quanto sia luminoso l'appartamento. Di luce effettivamente ne entra tanta ed è chiaro che questo è uno dei punti di forza della casa, punto di forza su cui lei non ha nessuna intenzione di mollare. Mi spiega che le case intorno sono basse, che la casa è esposta a sud e che per la dimensione totale ha una superficie finestrata amplissima. Superficie finestrata ovviamente è sua. Mi dice che il proprietario è un ragazzo di Padova che è venuto a Milano per studiare economia alla Bocconi e che dopo la laurea ne ha comprata una più grande di questa e ha deciso di mettere questa a reddito. Lo dice con una tale naturalezza che immediatamente io mi sento un pirla per il fatto di non avere frequentato la Bocconi e per non avere una casa da mettere a reddito. Mi dice che lui è un ragazzo per bene, che ha vissuto qui per 4 anni, ha imbiancato 2 volte e si è laureato a pieni voti. Per un attimo io mi domando per quale motivo mi stia raccontando la vita di uno che manco mai visto. Lei però sottolinea subito che è molto importante valutare le credenziali del proprietario, così come per il proprietario deve essere necessario valutare quelle dell'affittuario. Io le dico, beh, certo, come se anche per me fosse normale, poi però mi ricordo della mia decisione di un mese fa e quindi le dico che a me in realtà non interessa sapere se la persona che ha vissuto qui fosse un delinquente o un padre di famiglia. Mi deve giusto piacere la casa. Lei mi risponde, beh, certo, con lo stesso tono che ho usato io un attimo fa, e quindi capisco che non sta dicendo la verità. Però le fa comodo, perché lei deve solo affittare questo appartamento, visto che si prenderà subito una mensilità, tutta per sé. Mi mostra il bagno, che è cieco ma ampio, la cucinina, che è piccola ma separata, il parquet, che è vissuto ma che è caratteristico, per non parlare del balcone ovviamente, che in estate è un bijou. È strano come sembri conoscere ogni centimetro di questa casa che lei probabilmente ha visto di sfuggita un paio di volte. Io però non riesco a concentrarmi sulla casa con lei tra i piedi. È come quando entri in un negozio e la commessa ti si fionda addosso per chiederti se può aiutarti e vuole a tutti i costi mostrarti quello che secondo lei a te starebbe benissimo. Mentre mi sta declamando la zona come una zona ovviamente in riqualificazione, fortunatamente le squilla il cellulare. Esce sul balcone e io posso starmene un po' da solo, in mezzo alla casa vuota. Just a rebel song, just a rebel song. Your answer. It's just a rebel song, just a rebel song. And when your weakness sets down to be a child, whenever now your blood doesn't stop to cry, when you feel so restless and you don't know why to leave. Secondo me le case dovrebbero darle in prova. Sì, come fanno le aziende automobilistiche. Quando esce un modello nuovo tu puoi andare lì, salirci, farti un giro per sentire il motore, per sapere se è brillante oppure se il sedile è abbastanza comodo. È così, quando affitti o compri una casa dovrebbero fartici passare almeno 24 ore, un giorno e una notte. Per capire se lo spazio che c'è tra te e i muri ti calza addosso. Ho vissuto in case in cui mi sentivo a disagio, come se le stanze fossero disposte male, i corridoi non avessero un senso, che poi credo che non si tratti di un problema della casa in sé, ma del rapporto che si crea con chi ci sta dentro. Probabilmente qualcuno ci sta bene in una casa con le pareti curve o i muri storti, io no. La mia agente immobiliare litigava al telefono con un cliente, io ho chiuso la porta finestra che dava sul terrazzo e mi sono trovato in silenzio, finalmente, nella mia casa vuota. Mi sono appoggiato ad una parete per vedere come entrava la luce dalle finestre e dove si rifletteva. Poi ad un certo punto ho iniziato a vedere l'arredamento in casa. Il divano, la libreria, il tavolo per il pranzo, la scrivania, perfino il letto, sono riuscito ad immaginarmelo. Mi sono visto alzarmi la mattina e prepararmi la colazione e poi la sera, seduto sul divano a guardare la TV. La casa era piccola, con un locale solo, però improvvisamente mi sembrava ci fosse posto per tutto. La mia agente immobiliare è rientrata nel fragore dei suoi tacchi, scusandosi per l'assenza, ma in questo mestiere c'è sempre qualche bega, sa. Le ho detto che non c'era problema, che anzi senza di lei aveva avuto modo e tempo per valutare meglio la casa. Lei è rimasta un po' interdetta per un secondo, poi ha sorriso e ha continuato a elencarne i pregi. È strano come quando dici la verità, la prima reazione delle persone è quella di un lieve spiazzamento. Poi però recuperato immediatamente con un sorriso, come fare finta di niente. Come se non avessero sentito, come se non attribuissero a quello, a qualcos'altro, quel momento di disagio. Lei ha proseguito la sua litania fatta di riscaldamento autonomo, spese condominiali ridotte, posto moto interno, e recitava come se fosse una filastrocca imparata da una bambina. E io la osservavo mentre lei parlava e mi rendevo conto che quello che mi diceva non era tutto vero. O meglio, non lo era tutto completamente. Però non provavo né rabbia né biasimo per lei, cioè mi rendevo conto mentre lei parlava che quello era il suo mestiere e che parte del suo mestiere era anche quello di addolcire la pillola o di omettere qualche dettaglio. La cosa più forte in quel momento però non era che lei stesse mentendo oppure no, era che io avevo deciso che quella era casa mia e che lo sarebbe diventata molto, molto presto. Questa è Radio 24, sono Matteo Caccia, sono qui, alcuni di voi mi scrivono che gli è mancato molto il GR, purtroppo c'è una riunione e quindi non riescono ad essere proprio sul pezzo, ma a breve ci sarà il GR dopo, credo, no? Giusto? Non lo sappiamo, forse sì. Alle 5 c'è il GR e alle 4 e mezza la borsa. Non mi salta la borsa, perfetto. 349-238-6666 800-24-0024. Allora, Massimiliano, mi fa molto piacere che tu mi scriva. Io sono Massimiliano, promotore finanziario. Però, boh, non so, dimmi anche qualcosa di più di te, che so, ad esempio se indori la pillola oppure no. Faccio l'informatore medico-scientifico, vendo farmaci. Se questo non significa indorare la pillola, questa non è male, eh? Questa non è male. Non si vende il prodotto, mi scrive Riccardo, si vende se stessi, esperto di vendita diretta. E poi invece c'è un messaggio di una persona che mi, come si dice, decifra, decodifica il sogno, interpreta il sogno, che dice: il sogno, se non è premonitore o telepatico, è questo: desiderio inconscio di avere amici liberi come te, oppure di avere famiglia, ma l'irrealizzabilità per avere famiglia produce la morte della figlia. Senti, dispiace, se ne parliamo dopo. Mi tengo il tuo numero e ti chiamo fuori onda. 800240024 349-238-6666. Pubblicitari. Oggi veramente pubblicitari, perché io ho bisogno di parlare con un pubblicitario oggi. Vorrei capire innanzitutto veramente se esiste ancora la pubblicità. Perché ogni tanto sento dire, sai, una volta le aziende investivano. Come quello che ha chiamato l'altro giorno, ha detto, non esiste più il nero di una volta. Una volta sì che si faceva nero. Adesso è un po' la stessa cosa. C'è un'ascoltatrice che si chiama Margherita. Che mi scrive: ciao Matteo, io per indorare la pillola scrivo, cioè prendo un progetto i cui dettagli sono chiari di solito solo agli addetti ai lavori, una di quelle robe infarcite di termini inglesi fino alla nausea, tipo experience, extension, portfolio, visual, appunto, eccetera eccetera, e la racconto, cioè la romanzo, di solito all'interno di interviste, articoli, presentazione per eventi, comunicati stampa, gli eventi. Impazzisco per gli eventi. Quante persone organizzano eventi nel 2010 in Italia? C'è un ufficio apposta qui nella sede del Sole 24 Ore. Sono anche persone, nonostante tutto, sono anche persone molto simpatiche. Insomma, organizzo eventi, comunicati stampa. Si tratta per lo più di progetti di brand design. Ecco Margherita, magari se me lo dici in italiano. Molte delle cose che compri e usi nel tuo quotidiano, biscotti, dai biscotti al dentifricio, sigarette comprese, ma questo io non lo dico mai, hanno una marca o un packaging che nasce qui dentro dove lavoro io, sulla scrivania dei miei colleghi designer. Che te ne pare? Non ti sembra già d'oro questa pillola? A voglia, detta così mi sembra super d'oro. 800240024, 0024, però non ci credo, esiste un pubblicitario ancora oggi in Italia? Non è proprio un pubblicitario, è un concessionario di pubblicità ed è al telefono, pronto? Sì, pronto. Ciao, buongiorno. Buonasera. Ciao, sei io? Oliver, giusto? Oliver, esatto. Da come? Mi dici che cosa fai esattamente, Oliver? Allora, io vendo spazi pubblicitari su riviste estere specializzate. Ok, per cui fammi un esempio. Per esempio, riviste di architettura, riviste di meccanica per operatori, per professionisti, non per il pubblico finale. Cioè, quindi, mi fai proprio un esempio pratico? Magari non mi dici il nome... Ecco, diciamo una rivista che io non tratto, ma che potrebbe essere una rivista come... Facciamo un esempio? Vai, tranquillo. potrebbe essere come in Italia Domus, no? Domus? Domus, ecco, okay, una okay. Rivista di architettura, perfetto, perfetto. L'analogo in Germania piuttosto che in Francia, in Giappone. Ma scusami, e tu lo fai per giornali stranieri? Per giornali stranieri, esatto. E come ci sei arrivato a fare sta roba per giornali stranieri? No, diciamo che ha iniziato mio padre 40 anni fa, no? Ah, ok. E poi ecco, ma sono entrato. Oliver, ma 40 anni fa c'era la pubblicità? Sì, 40 anni fa c'era la pubblicità, ma la cosa più importante è che c'era gente che aveva la voglia e il tempo di ascoltarti, studiare insieme a te le soluzioni migliori e di trovare diciamo le situazioni che potevano essere più vantaggiose per l'azienda. Oggi è molto più difficile. Oliver, comunque è straordinario, perché potrei starti a sentire delle ore, e tu secondo me riusciresti a parlare delle ore senza dire veramente niente, cioè no, situazioni concrete, cose interessanti, però io mi sono perso alla seconda frase. Tu scusami, da Como quindi cosa fai? Vai in Germania o lavori da Como e fai tutto? No, io lavoro da Como sul mercato italiano, quindi ad aziende italiane che vogliono esportare. Ok, di quanto è calata la raccolta pubblicitaria negli ultimi anni? Scusa, di quanto è calata? Di quanto è calata? Allora, sulla nostra casa, per noi è calata di oltre il 50%. Oltre il 50%, benissimo. Oliver, ti lascio con queste buone notizie. Grazie Oliver, buona giornata. Ciao, ciao, in bocca al lupo. 800 24 0024, solo pubblicitari, ma dopo la borsa, mi raccomando, perché c'è la borsa, giusto? È solo il GR che non c'era. La nostra unica certezza è che alla mezza c'è la borsa. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Nella foto non c'è praticamente niente. Ci sono uno, due, tre cavi che si incrociano, due paralleli e uno che li taglia di traverso, e un paio di scarpe legate per le stringhe e appese uno dei cavi. Sullo sfondo c'è il cielo completamente grigio. È diversa dalle altre foto, perché di solito mi arrivano foto che sono molto molto intime, che riguardano luoghi in cui si lavora o si vive, oppure le facce delle persone che me le mandano. Questa invece è chiaramente la fotografia di un pezzo di cielo di una città, e questi sono i cavi probabilmente della luce o del telefono. E le scarpe appese invece non sono un caso, sono state lanciate. Potrebbe essere è sicuramente un posto straniero. Io in Italia ancora non ho visto delle scarpe appese dei cavi della luce. Le ho viste negli Stati Uniti invece. Potrebbe essere lì, potrebbe essere ovunque, perché sono un paio di scarpe da ginnastica Nike, credo. Credo, o Reebok. Ah boh, comunque un paio di scarpe da ginnastica. Non so esattamente cosa voglia dire questa cosa. Ci sono varie teorie sulle scarpe lanciate sui cavi della luce in mezzo alle strade o agli angoli delle strade. Una delle teorie è che sia un modo per chi ce l'ha fatta di liberarsi della povertà, per cui come la conquista di un nuovo stato sociale. Ho fatto i soldi, oppure anche semplicemente ho trovato lavoro, mi sono sposato, abbandono la mia vita di prima, che è un po' l'equivalente di buttare giù le robe vecchie della finestra a Capodanno, no? E si lanciano queste scarpe per liberarsi proprio delle scarpe vecchie. L'altra invece è banalmente perché pare che i posti in cui ci sono delle scarpe appese a un cavo della luce indicano luoghi in cui si spaccia della droga. Sono Chiara Iolfi, 24 anni, e io sono qui, con la fatica di raggiungermi dove dico di essere. Io sono qui. Sono le 16.35, la notizia è che il comitato di redazione è finito, perché li ho visti uscire, sono tutti in redazione di nuovo, quindi di nuovo breaking news, siamo pronti per il GR delle 17. Andiamo avanti invece, perché continua la bagarre di pubblicitari che evidentemente esistono ancora, pubblicitari, gente che di mestiere organizza eventi. Ecco, per piacere, io ho una passione per i consulenti, questo lo sapete, però mi sta nascendo un'altra grande passione, ed è quella per quelli che organizzano eventi. Chissà che tipo di eventi si organizzano. C'era un amico di Tiziano che diceva: cosa fai? Organizzi eventi? Chi sei? Dio. Cioè, dipende, li organizzi o li crei? Dipende. No, se li crei è un conto, se li organizzi invece è un altro. E tra l'altro mi scrivono: Paolo, secondo me meglio degli eventi sono i workshop. Che sinceramente non saprei nemmeno dire che cosa siano con esattezza i workshop, però sono una roba simile. Anch'io vorrei conoscere i pubblicitari di quella banca che cantano e ballano sui jingle per spaccargli la faccia. 349-238-6666. Ciao Matteo, sono un tuo omonimo, faccio l'agente immobiliare nelle stazioni ferroviarie. cos'è? È una battuta questa. O forse ci sono agenzie immobiliari. Forse ci sono agenzie immobiliari nelle stazioni per chi arriva e cerca casa? Non lo so, ti prego dimmelo. Ciao, io pubblicizzo la riuscita di una terapia che non sempre riesce, ma che quando riesce è un successo. Tutti i giorni. Sono un tecnico di radioterapia, sono Simone di Oleggio, provincia di Novara. Non deve essere facile, perché appunto quando esce un successo, quando esce immagino lo sia un po' meno. 800240024 349-238-6666. Prima però di andare sul pezzo, di andare sui pubblicitari, rimanete lì perché ho bisogno di voi. Io mi ero affezionato ad un ascoltatore che quando due giorni fa parlavo di vendere casa, era intervenuto perché aveva bisogno di cercare casa e andava a cercarla. La storia era questa qui. Andiamo a Pisa da Federico, pronto? Sì, ciao Matteo. Ciao Federico, dimmi al volo. Io sono praticamente fra 20 minuti vado a vedere la casa. Dove? A Pisa. Il mio cugino, praticamente la sua mamma, la mia zia, diciamo, c'ha una casa in affitto. Insomma, questo era Federico che mi chiamava da Pisa e aveva questa casa in affitto che voleva andare a vedere semplicemente per andarci a vivere, ma chi ci stava non se ne usciva da quella casa. Federico forse ce l'ha fatta. Pronto Federico? Ciao Matteo. E allora com'è andata? Allora, il tipo si è presentato con tipo mezz'ora di ritardo e ha aperto casa, era tutta completamente chiusa. Sì. Il nostro sospetto è che ci vivesse sicuramente con l'amante, perché io più della casa guardavo i dettagli, guardavo tipo c'aveva due tazzine del caffè, il resto perfettamente tenuto. Ma quindi scusami Federico, non era una casa, era uno scannatoio in realtà. Sì, alla fine sì, a questo punto l'idea l'ha avuta anche noi. Ah ok, ma alla fine siamo riusciti, insomma cosa hai deciso di fare? Ci vai a stare oppure no? No, alla fine no, è troppo piccola. Va bene. Sono due stanze con la cucinetta proprio di quelle da studenti. Niente, quindi a posto. Mi tengo la mia per adesso. Bravo, Federico, facciamo così, tu continua la tua ricerca e nel futuro ci sentiamo perché non voglio lasciarti per strada, Federico. Va benissimo. Buona giornata. Ciao, alla prossima. Ciao, ciao. 800240024 non è esattamente un pubblicitario, però è uno che la pillola la indora. Pronto Paolo, provincia di Brescia? Sì. Buongiorno nel Paolo. Buongiorno a tutti. Nel mio lavoro è indispensabile saper indorare la pillola. Raccontaci che cosa fai, Paolo. Sono un organizzatore di eventi? Non so, dimmelo tu. Sì, sono organizzatore di eventi, sono un impresario di onoranze funebri. Ecco, però diciamo, quell'evento lì non è che ha bisogno di essere organizzato, o meglio, accade e poi no, hai ragione, forse va organizzato, come no, certo. Va organizzato perché se non si indora la pillola rimane tutta la tristezza dell'evento umano, la dipartita di un caso. Chiaro, chiaro. Il mio compito ovviamente... La stai già indorando, Paolo, ti dico, da come parli la stai già indorando, vai, grande, vai, vai. Sì, il nostro compito è quello. Ci tengo perché è un nostro settore di cui si parla molto malvolentieri, solitamente frugando in tasca, cercando le monetine, come si suol dire. Sì. Con scongiuri di vario tipo. Ah, certo, certo. Quindi... Ma c'è ancora gente che lo fa? Qui, mamma mia, sono in giro col carro funebre, non sai quanti ne incrocio. Guarda, è probabile, Paolo, addirittura, che tutti quelli che sono in macchina in questo momento lo stiano facendo. Io però ti assicuro no. Ti assicuro, non lo sto facendo. Senti, ma dimmi però una cosa. Quelle polemiche, perché si diceva che fuori dai pronto soccorsi la gente chiamasse le imprese di pompe funebri per avere un po' una tangente. Mamma mia. Mamma mia. È vero, è realissimo. Ovviamente non ti riguarda. No, mi riguarda. Come ti riguarda? Sì. Cioè, allora, nel senso che l'hai fatto? Ti spiego un pochino la situazione. Dai. È in dubbio che specialmente gli italiani abbiano questo vizio un attimino della mancia. Vabbè, è fino a lì. In qualsiasi ospedale vai, in qualsiasi reparto vai, c'è una sorta di riconoscenza. E fino lì va benissimo. Sì, sì. Dopo, a un certo punto, si entra in quello che è proprio un reato, quindi c'è una commercializzazione. Ah, okay. E lì, quando arrivano i magistrati, arrivano, ben venga, ne siamo felici anche noi impresari di onoranze funebri, perché non ci si comporta così, non si lavora così. Ho capito. Senti Paolo, quante persone lavorano nella tua impresa? È tua? È piccola, siamo in quattro, più abbiamo un'agenzia che assume il personale. E quanto si tira su? Quanto si fattura con un'impresa di pompe funebri? Dipende dai servizi, i costi sono elevati. Ho capito, ma 150.000, 200.000? Dipende, ci sono imprese da 30.000 euro all'anno, imprese da tipo un'impresa, euro all'anno. Un'impresa da quattro persone quanto fattura? Un milione di euro. Va bene, Paolo, grazie mille, buona giornata. anche voi. Ciao, alla prossima. Finalmente un pubblicitario, anzi un ex pubblicitario, Cristiano da Como, pronto? Buongiorno. Buongiorno Cristiano. Tu facevi il copywriter. Esatto, per 2 anni in un paio di agenzie che ho girato. Spieghiamo a quelli che non hanno idea che cos'è un copywriter. Allora, il copywriter è lo scribacchino della pubblicità. Beh, lo è il creativo. Non è creativo, è una parola grossa, ragazzi, non esageriamo. Cioè, il creativo lo dicono quelli che sono nelle agenzie. Ah, beh, certo, che mestiere fai, faccio il creativo. Tu adesso che fai un altro lavoro... Esatto. Che lavoro fai, Cristiano, adesso? Io adesso faccio il giornalista a tempo pieno. Ok. E cosa... Però, come copywriter, il dramma non è tanto l'indorare la pillola, sai, che quello sarebbe il meno. Cos'è il allora? Il dramma è che ci si crede. Cioè? Ah, ma che ci credono, cioè nelle agenzie credono veramente che il prodotto pubblicizzato sia il migliore del mondo, quello che risolve i problemi dell'umanità. No, non ci credo, Cristiano. Questo è il dramma, è questo qui. Ma scusami, io mi ricordo che Mike Bongiorno lo diceva: io prima di promuovere il prosciutto devo mangiarlo per sapere che è buono. Però Mike Bongiorno lo posso pure capire che lo dica, faceva parte del personaggio. Però io non ci credo che nelle agenzie, se arriva un lavoro e il prodotto non è buono, non lo prendono. No, questo no, ma c'è un'autosuggestione per cui il prodotto che è tuo cliente... Comunque è buono. È immediatamente buono, immediatamente il migliore del mondo e immediatamente ha tutte le qualità. Ah, okay. E poi, tra l'altro, le agenzie, quelle che si ritengono più serie, nel senso quelle che non mettono donne mezze nude in copertina per vendere il prodotto, per intenderci, queste si dicono... Noi non raccontiamo bugie. Senti, invece dimmi la cosa peggiore per cui hai dovuto scrivere una cosa, un prodotto proprio... Guarda, io ho scritto in 2 anni, sono diventato un super esperto, tra virgolette, ovviamente, di tutto. Dai vasi per fiori alle gru idrauliche... È un claim, una frase che ti sei inventato, uno slogan. No, dai ragazzi, no, vergogna, questo è troppo. Hai vergogna addirittura. Un minimo di decenza manteniamola. Una, dimmene una, tipo la banana col bollino, quelle robe lì. No. Poi noi sinceramente eravamo agenti. Allora, noi all'epoca, io sono sempre stato in agenzie che le cosiddette B2B, quindi quelle che fanno business to business, cioè che vendono prodotti che vanno ad altre aziende, non che vanno al grande pubblico. Niente, cioè non è la... stai già vendendo il prodotto, Cristiano. Ma ti ringrazio lo stesso. Mi è rimasto addosso. Lo vedo, ti rimane attaccata addosso e non ti si stacca più. Ciao, grazie. Ciao, grazie a te. Fabio mi scrive che le scarpe appese agli angoli della strada rappresentano bottini di guerra fra bande. Grazie a lui, grazie a Tiziano Bonini, ad Alessandro Genovesi, a Paolino Corleoni e a Vittoria Mussini. Oggi ho mangiato un piatto di spaghetti allo scoglio, ho pensato a com'è la vita in una casa nuova, ho controllato il mio conto in banca per vedere se ho i soldi per affittarla, ma soprattutto oggi ho trovato una casa. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?